Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea di Radio 24. Buon sabato da Giulia Crivelli. Come sempre i temi sono, come potete immaginare, quelli dell'immigrazione, del diritto d'asilo, perché ormai bisognerebbe veramente anche distinguere sempre: ci sono le emergenze, ci sono l'emergenza ai confini, ci sono questi campi che potremmo quasi chiamare ormai dei campi profughi. Abbiamo visto quello di Calais, ma ce n'è un altro, c'è persino una sorta di campo profughi a Torino, pensate, dove una volta esisteva il villaggio olimpico delle Olimpiadi. Quindi il tema davvero è attraversa sia la cronaca che i commenti. E cominciamo appunto da un articolo riportato poi anche da Internazionale, che però trovate anche online sul sito che sapete io amo molto, voxeurope.eu, che si intitola Il ricatto turco e l'ipocrisia di Bruxelles. Avrete forse seguito tutti questi vertici, che forse Matteo Renzi, anche con una certa parte di ragione, ha definito esagerati. Ormai c'è un vertice europeo ogni 2 o 3 giorni e poi non si conclude niente, o se si conclude niente poi non si riesce a mettere in pratica quello che ci si propone di fare tra partner. E in uno di questi vertici la Turchia ha di nuovo chiesto delle risorse per gestire in particolare gli immigrati che provengono dalla Siria, dopodiché però innanzitutto non si sa se queste risorse vengono veramente impiegate, ma soprattutto si legge in questo articolo: prima di concedere così tanta credibilità e anche così tanti fondi alla Turchia, bisognerebbe almeno pretendere il rispetto dei diritti umani all'interno del paese, dei diritti umani e anche della libertà di stampa. Per esempio abbiamo assistito anche alla chiusura di giornali proprio pochi giorni fa, tanto che i giornali turchi, quelli che si sentono ancora, hanno ancora il coraggio di dire esattamente quello che pensano, alcuni di essi, questo sempre riporta Internazionale, come Today's Zaman, uno del gruppo Feza, e Turkish Manse, hanno proprio parlato di una dittatura che si avvicina. Naturalmente il responsabile primo è Erdogan, questo specie di presidente dittatore apparentemente eletto democraticamente, ma poi in realtà come lui usa questo voto che, salvo brogli, è liberamente espresso dai cittadini, come poi lui lo usa, questa maggioranza assoluta, è tutto un altro discorso. Sempre da Internazionale vi segnalo, prima di tornare comunque sui temi dell'immigrazione, un articolo sulla Slovacchia, uno dei tanti paesi di cui magari un po' per problemi linguistici, perché è piccolo, perché ce ne dimentichiamo, uno appunto dei paesi di cui non parliamo molto. Si è votato di recente e anche in Slovacchia, come in molti altri paesi, in particolare dell'Est Europa, avanza l'estrema destra. Questo lo raccontano appunto i giornali slovacchi, riportati in parte da Internazionale. Vi dicevo la questione dell'immigrazione. Eric Joseph, che è un giornalista di Liberation, corrispondente dall'Italia per Liberation da molti anni, torna sulla questione della Turchia, e proprio un articolo che trovate tra l'altro anche su Vox Europe dice che proprio l'Europa potrebbe perdere l'anima su questi mercanteggiamenti testuali con la Turchia per trattenere i rifugiati che vogliono andare in Europa. L'Unione farebbe meglio ad aiutare gli Stati membri che stanno affrontando praticamente da soli il flusso di profughi. E viene citato, come vi dicevo, anche Matteo Renzi, che qualche giorno fa ha detto: voglio un riferimento alla libertà di stampa, se no non firmo l'ennesimo appunto protocollo che concede alla Turchia degli aiuti che Erdogan dice sono necessari per gestire questi flussi migratori, in particolare dalla Siria. In effetti in Turchia sono aumentati, è il paese dove sono arrivati la maggior parte dei profughi siriani, e quello che chiede l'Europa è che vengano a questo punto fermati, anche perché sappiamo che se fino a poco tempo fa la Germania si dichiarava pronta ad accoglierne fino a 1 milione, adesso anche in Germania, lo abbiamo visto con le amministrative della scorsa settimana, c'è un'opinione pubblica sempre più contraria a questa politica di accoglienza della cancelliera Angela Merkel, che peraltro da vera statista, nonostante le elezioni amministrative siano state anche un referendum sulle sue politiche sull'immigrazione, ha risposto, e dicevamo appunto amministrative dove si sono affermati i partiti che sono contrari a queste politiche di immigrazione, lei ha subito risposto: io non cambio idea per questo voto, la nostra politica ha delle ragioni serie, decise tempo fa con tutti gli aggiustamenti possibili, però la Germania resterà sulla posizione di appunto cercare di accogliere più profughi possibili, in particolare quelli naturalmente politici. Ma parliamo di un'altra questione europea importantissima, che è quella naturalmente economica, finanziaria. Alternative Economique, che è un settimanale francese, dedica la sua copertina a Mario Draghi, che è un po' dipinto come un Superman che vola e si lascia dietro una grande quantità di denaro. Il riferimento naturalmente è all'annuncio di un nuovo ciclo di quantitative easing, una politica monetaria molto espansiva, e il titolo, in realtà con un punto interrogativo, di Alternative Economiche è: Mario Draghi è il salvatore dell'Europa? Il presidente della Banca Centrale Europea, si legge, è pronto a tutto per rendere più efficace l'economia monetaria dell'Europa. A fronte di numeri sempre meno rassicuranti, Draghi ha annunciato che rivedrà, eventualmente riconsidererà, l'attuale politica monetaria della BCE, che punta sull'anticipare l'inflazione per non incorrere nell'ulteriore problema della deflazione. Sappiamo che adesso i tassi sono a zero, proprio perché sono stati portati a zero, proprio per combattere questo spettro della deflazione, che sono i prezzi in discesa. E poiché questo spettro, come si legge anche nell'articolo di Alternative Economique, aleggia anche sull'economia americana, anche il governatore della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, Janet Yellen, che anche lei aveva in programma probabilmente un ritocco dei tassi verso l'alto, in realtà, come sappiamo, poi li ha mantenuti invariati. Torniamo in Germania, ma per un altro argomento. Sapete il tema delle banche, quanto è importante per l'Italia, per la Germania, ma per tutta l'Europa. Cioè, è un momento in cui si sta molto ripensando il sistema bancario, perché il sistema bancario ha dato alcune cattive prove di sé, diciamo così. E allora la Frankfurt Allgemeine Zeitung torna sulla questione Deutsche Bank. Deutsche Bank, una delle più grandi banche europee, ha in pancia crediti deteriorati in percentuale altissima. Se dovesse fallire sarebbe una tragedia per l'intero sistema economico tedesco. Non fallirà, ovviamente, però la FAZ, tenendo conto anche dello scenario europeo in cui vengono a galla questi conti pieni di falle delle grandi banche, in Germania appunto per prima la Deutsche Bank, spiega che la banca non esclude di fare nuovamente ricorso a un aumento di capitale. Un presidente non dovrebbe mai escludere una misura del genere, ha spiegato appunto al quotidiano John Cryan della banca. Al momento però ha detto: vediamo altre possibilità per venire a capo delle esigenze di capitale. Sono stati tagliati drasticamente i bonus ai dirigenti, cosa che per esempio in Italia non sempre è avvenuta, anche perché nel 2015 Deutsche Bank ha registrato perdite record, però invece agli stipendi, così ha dichiarato alla FAZ questo pezzo grosso della Deutsche Bank, invece gli stipendi fissi delle fasce più basse sono invece stati, anzi, leggermente alzati. Per quanto riguarda un altro grande scandalo che ha colpito la Germania, che ha un po' scalfito la sua immagine, e anche per Deutsche Bank potremmo dire la stessa cosa, ha scalfito la sua immagine di paese di ferro che rispetta le regole e che nei limiti del possibile resta la locomotiva dell'Europa, la vicenda naturalmente Volkswagen. La Süddeutsche Zeitung ricapitola la quantità, il numero di investitori che sarebbero pronti o avrebbero già citato in giudizio Volkswagen per lo scandalo delle emissioni, richiedendo un risarcimento danni che a questo punto potrebbe arrivare a 3 miliardi di euro. E quindi naturalmente non sarebbero sufficienti tutti gli accantonamenti fatti finora. È una questione anche a livello europeo, perché gli standard per le emissioni sono standard fissati dall'Unione Europea, ma come sappiamo c'è anche tutta una parte americana dove anche lì potrebbero arrivare cause, addirittura delle class action contro Volkswagen. Ultima notizia riguarda il Jobs Act. Le Monde, sapete che in Francia ci sono stati degli scioperi veramente durissimi che hanno obbligato il governo a modificare la riforma del lavoro, che per certi versi ricordava il nostro Jobs Act, la grande riforma del lavoro fatta dal governo Renzi nello scorso anno. Ecco, Le Monde cerca di spiegare ai francesi che appunto il Jobs Act, che, come dico, in qualche modo è parallelo a questa riforma del lavoro che si sta cercando di introdurre in Francia, ebbene il Jobs Act, a distanza di un anno, tutto sommato in Italia ha funzionato. Quindi un giornale di centrosinistra come Le Monde, molto critico comunque verso il governo Hollande, cerca di forse spiegare ai francesi che sì, sono lacrime e sangue le riforme del lavoro, ma hanno anche un senso a medio, ma anche a breve medio periodo. Era l'ultima segnalazione per oggi, ci sarebbero naturalmente tanti altri articoli, in particolare, ripeto, sul tema dell'immigrazione. Non c'è più tempo però, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.